scrivono che il GPOA, la prima organizzazione ad aver rivendicato il delitto Verbano, non è altro che una sigla utilizzata dalle formazioni di destra per confondere gli inquirenti e complicare ulteriormente le indagini. È un'assoluta novità che a soli 3 mesi dall'omicidio di via Montebianco potrebbe gettare nuova luce sul caso Verbano. Eppure non si muove nulla, non ci sono interrogatori né indagini mirate. Nel fascicolo non vi è traccia. Un'altra pista possibile, un'altra pista che fino ad oggi appare ancora da percorrere. E c'è un altro mistero ancora da chiarire. Che fine ha fatto la pistola usata dagli assassini e lasciata in casa Verbano? La pistola non è mai scomparsa dall'ufficio corpi di reato di questo tribunale. È stata semplicemente trasmessa nel 1989 al tribunale di Palermo su richiesta del giudice istruttore, dottor Natoli. È stata comunque riconsegnata nel luglio 2005 su richiesta del tribunale di Roma a Palermo, ma non si trova in questo ufficio perché poi nel settembre sempre del 2005, su autorizzazione del pubblico ministero dottoressa De Martino, è stata consegnata al reparto operativo dei Carabinieri di Roma per l'effettuazione di alcune perizie sull'arma da effettuarsi a cura del RIS di Roma. Su quella pistola che per molti anni si diceva fosse scomparsa e che invece è sempre stata all'ufficio corpi di reato per perizie e verifiche. Ma anche la madre di Valerio non si arrende. Rimasta sola dopo la morte del marito, ha deciso di scrivere all'ultimo irriducibile dei NAR, Pasquale Belsito, arrestato soltanto nel 2001 per chiedergli aiuto. Durante questi anni non ho mai perso la speranza di poter conoscere la verità sull'omicidio di mio figlio. Mi rivolgo a lei, Pasquale Belsito, perché ha conosciuto e frequentato gli ambienti di estrema destra, NAR, terza posizione. Chi meglio di lei conosce la storia di quel particolare momento? Spero che lei sappia qualcosa e che abbia voglia di raccontarla a una madre in cerca della verità. Non voglio vendetta, voglio solo giustizia, quella che è stata negata fino ad ora dal silenzio assordante che ha coperto l'assassino di mio figlio. Credo che la decisione di raccontare le cose che sa potrebbe portare sollievo anche a lei. Rina Carla Verbano.